Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito da un aggiornamento delle borse che peggiorano sensibilmente, meno 2,3% in questo momento Milano, meno 2,4 per la precisione, Parigi meno 2, Francoforte meno 2,4 come Milano, quindi Londra meno 1,4, l'America perde quasi 2 punti percentuali. Che cosa è successo? Beh, sono uscite molte trimestrali di banche americane. Bank of America è andata anche meglio delle attese, tra l'altro a dicembre scorso Bank of America aveva restituito i 45 miliardi di dollari avuti come prestito, ma Morgan Stanley ha deluso, l'utile c'è stato, però è inferiore alle previsioni. Per quello che riguarda Wells Fargo, altro grosso gruppo finanziario americano, invece un utile che è volato a 2 miliardi 800 20 milioni di dollari, migliore delle attese. Ciò nonostante la borsa penalizza oggi soprattutto i titoli bancari. Ci sono anche delle vicende italiane. Il titolo peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione è Banca Popolare di Milano, che perde il 4,2% dopo la presentazione del piano industriale. Ci sono poi altre vicende che riguardano Finmeccanica. Sono arrivate delle raccomandazioni a vendere il titolo. Sapete che noi non piacciono i report degli analisti. Comunque Goldman Sachs così ha detto, soprattutto ci sono stime di una riduzione delle spese militari, che è il core business del gruppo Finmeccanica. Il titolo perde il 3,80%, male anche i titoli legati alle costruzioni, Buzzi Unicem perde il 4%, Impregilo il 3,7%, Italcementi il 3,5%, poi c'è Intesa che perde il 3,1%, Banco Popolare che perde il 3,1% anch'esso, Generali meno 3%. Si scende ad Enel, meno 2,9 come Prismian e Unicredit, il 2,8 lo perdono le CIR, ma anche Saipem, il 2,7 è il calo di Fiat e anche di Autogrill. Per quello che riguarda sempre i titoli che perdono più del 2%, citiamo anche Exor, meno 2,7%, Mediolanum, Mondadori e Mediaset perdono il 2,4%, Pirelli il 2,5% come Tenaris. Ancora A2A perde l'1,8% e Atlantia, Ansaldo e Telecom 1,5% di calo, Eni e Mediobanca il 2,1% di calo. L'euro nel frattempo si è indebolito ulteriormente, è sceso a quota 1,4107, anche di questo parleremo nel corso dell'aggiornamento con i mercati finanziari. Temi di apertura riguarderanno l'Italia, l'andamento della produzione industriale degli ordinativi dell'industria italiana in occasione oggi del premio Leonardo, il premio che viene assegnato e conferito alla presenza del Presidente della Repubblica ogni anno agli imprenditori che più si sono messi in evidenza per capacità di investire in ricerca, di innovare, di affrontare le sfide, premio che riguarda anche alcuni imprenditori stranieri. Abbiamo un insieme di interviste raccolte proprio a margine del premio Leonardo, oltre al ricordo fatto dal Capo dello Stato dell'importanza del Made in Italy e di come negli anni Ottanta si sviluppò questa idea del Made in Italy, partendo proprio dal mondo della moda. Ma abbiamo un'intervista anche al numero uno mondiale di Sharp, che oggi, in occasione del premio Leonardo che gli è stato conferito, ha anche tenuto una conferenza stampa per ricordare il valore di quell'accordo che già abbiamo coperto a fine dicembre. Mi riferisco all'accordo tra Sharp, STMicroelectronics ed Enel per la produzione di pannelli fotovoltaici negli stabilimenti di STMicroelectronics a Catania. Praticamente Sharp, che è leader nella costruzione di pannelli fotovoltaici, userà proprio gli stabilimenti di STMicroelectronics a Catania come piattaforma per l'intera Europa. In questo momento vende pannelli prodotti in Giappone, ma dal 2011 saranno operativi i pannelli costruiti nello stabilimento tramite questo accordo di Catania. E questa è anche una risposta, lo dico senza nessuna polemica, visto che ieri abbiamo parlato di nucleare, dell'indotto che gli investimenti in energia nucleare porteranno al nostro paese, 30 miliardi di cui appunto un 70% di indotto italiano. Oggi parliamo anche di energie alternative, ripeto, non sono due temi in contrapposizione, a nostro avviso sono casomai complementari. Ancora è passata in commissione, come vi ricordavano i nostri GR, anche una riforma, una modifica al quelle che è la legge che regola il mercato del lavoro. In sostanza, l'emendamento che dà la possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico anche con apprendistato è passato, cioè i ragazzi all'ultimo anno della scuola dell'obbligo potranno svolgere questo anno di scuola come presso un luogo di lavoro come apprendistato. È stato approvato dalla Commissione Lavoro della Camera, lunedì andrà in aula, poi tornerà al Senato per il via libera definitivo. Si potrà cominciare di fatto a lavorare come apprendisti già a 15 anni e questo varrà come se ci fosse stati in classe a frequentare le lezioni. E poi anche altre novità, per esempio tutti i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, non solo più i medici ma anche per esempio biologi e farmacisti, potranno andare in pensione a 70 anni e con 40 anni di contributi effettivi, tempi più lunghi invece per la riforma degli ammortizzatori sociali e quindi tutti quegli strumenti che in questo caso servono a sostenere l'occupazione o a integrare ed evitare forme di disoccupazione tout court, in primo luogo la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ma anche i contratti di solidarietà. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo allora dalla notizia in breve, come sempre, quindi anche dal mercato del petrolio. In calo a New York a $77 al barile. Dicevamo delle trimestrali americane, oggi molte notizie ve le hanno già date i nostri GR, riguardano l'America, la sconfitta di Barack Obama in uno stato chiave che mette così in cattiva luce il percorso della riforma sanitaria e soprattutto anche quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Barack Obama a un anno dalla sua elezione. Bank of America, dicevamo, trimestrale ancora in rosso, $194 milioni. Un anno prima, visto che parliamo dell'ultimo trimestre del 2009, nell'ultimo trimestre del 2008 la perdita era di quasi $2 miliardi. In realtà, se si include il rimborso agli aiuti pubblici, la perdita netta sale a $5 miliardi e 200 milioni. Va ricordato infatti che Bank of America già a dicembre scorso ha restituito i $45 miliardi ricevuti come aiuti nel piano, all'interno del piano TARP, quello che di fatto ha fornito quasi $800 milioni di aiuti statali a istituzioni finanziarie americane. Peggio del previsto invece il risultato di Morgan Stanley, che ha chiuso l'ultimo trimestre del 2009 con un utile di $413 milioni, è pari a $0,14 per azione, è un terzo di quanto, rispetto a quanto si attendevano gli analisti. Wells Fargo, dicevamo, invece ha avuto un bellissimo utile, $2,820 milioni, contro una perdita di $2,5 miliardi un anno prima. È migliore di qualunque stima degli analisti. Ricordo che ieri Citigroup ha chiuso il quarto trimestre con un rosso di $7,5 miliardi, ma ha restituito $20 miliardi di aiuti. E venerdì scorso JP Morgan aveva evidenziato utili quadruplicati a $3,3 miliardi, ma soprattutto grazie all'attività di investimento, di investment banking, mentre erano ancora in rosso il comparto carte di credito e retail, quindi clientela. Domani poi uscirà la tesissima trimestrale di Goldman Sachs. Veniamo all'Italia, perché nella classifica sulla libertà economica noi restiamo in fondo, siamo superati anche da Polonia, Madagascar e Armenia. Voi sapete che anche su queste classifiche così abbiamo espresso negli anni passati molto scetticismo, ma insomma le diamo come notizie. Questa è come sempre la ricerca stirata dal Wall Street Journal e dalla Heritage Foundation. L'indice della libertà economica si basa su 10 parametri e va a valutare la presenza o meno di ostacoli da parte dello Stato alla possibilità di agire individuale, cioè di libera iniziativa in campo imprenditoriale. Allora, in testa della classifica si confermano Hong Kong, Singapore e Australia. Gli Stati Uniti hanno perso due posizioni, sono ottavi, perché e vengono anche superati dal Canada come conseguenza di tutto l'intervento statale mettiamolo in breve, in semplice, tutto l'intervento statale fatto dall'amministrazione Bush prima e Obama dopo per salvare il sistema finanziario americano. L'interventismo statale viene giudicato negativamente, ecco perché gli Stati Uniti sono scivolati all'ottava posizione. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666 sull'emendamento che è passato quanto apprendistato. Ci arriviamo alle 18.10, quindi tranquilli su questo, ne parleremo. C'è una reazione molto forte dell'opposizione che dice viene negato l'obbligo scolastico di fatto. Adesso vedremo di capire di cosa si tratta e ne parleremo direttamente con chi ha proposto questo emendamento, con chi è autore del testo. Allora, oggi il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, parlando della situazione economica dell'Italia a margine dell'esecutivo dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane, è uscito con una frase che altre volte avrebbe evocato il nostro gufo. Ha detto: con questi tassi di crescita, con questa crescita non usciamo dai problemi. Laconico, ma molto anche lapidario il giudizio di Corrado Passera nel giorno in cui l'Istat ha diffuso i dati sull'andamento di fatturato industriale e ordinativi alle industrie. Allora, primo tema di questa puntata: come va il nostro sistema di impresa, anche dalla voce dei premiati oggi, cioè degli imprenditori che si sono distinti per capacità appunto competitiva. Mi riferisco ai premi Leonardo. Di nuovo 349-238-6666 per gli sms. Continuano gli sms contro il nucleare, accettiamo qualunque idea, non le offese, come, diciamo, come atto così di principio, come atto di dialettico, si può parlare di tutto senza offendere, lo dico a chi scrive, arriveremo anche a questo. I dati di oggi sugli ordinativi, allora più 2,6% a novembre rispetto al mese precedente, invariati rispetto a un anno prima, ma non interessa il mese su mese, quindi il dato è buono, anche perché gli ordini in industria sono il primo passaggio per arrivare poi a produzione e fatturato. Questo grazie soprattutto agli ordinativi all'industria dell'auto. Sono volati a novembre ai massimi dal 2008, più 15% rispetto al 2008, è il dato più alto dal gennaio del 2008. E bene anche il fatturato, più 1,5% a novembre rispetto a ottobre, siamo sempre sotto di un 6% rispetto al novembre 2008, però ma il dato congiunturale mese su mese mostra un recupero dell'attività produttiva. E questa mattina, come ricordavamo, si è svolta al Palazzo del Quirinale la presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del Ministro dello Sviluppo Economico Scajola, della Presidente di Confindustria Marcegaglia, la giornata della qualità italiana, quando vengono premiati appunto con il premio Leonardo gli imprenditori che più si sono distinti. Allora, primo premio, quello Leonardo, al Cavaliere del Lavoro Gian Felice Rocca, che è presidente del gruppo Techint, e poi altri premi di settore all'Artoni Group, all'Auricchio, al gruppo Brunello Cucinelli, al gruppo Trevi, e poi anche i premi Leonardo International. Abbiamo anche un paio di interviste con il numero uno della Sharp da un lato e con il numero uno dei magazzini GUM, che sono il più grosso soggetto della grande distribuzione in Russia. Segnalo anche che il premio Leonardo La Carriera è stato consegnato al premio Nobel Rita Levi Montalcini e il premio speciale 2009 alla Protezione Civile Italiana. E il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto: pur con segnali di miglioramento non bisogna sottovalutare le difficoltà, occorre intervenire dove è necessario. Ci sono ancora difficoltà e non dobbiamo sottovalutarle, soprattutto dobbiamo trarne la conseguenza di intervenire laddove è necessario, ma insomma oggi è una gran bella giornata. Io voglio anche qui dire in modo particolare quanto sia significativa l'assegnazione del premio Leonardo al presidente del Techint, al presidente Rocca, che è una delle espressioni dell'alto livello scientifico e tecnologico della nostra industria e anche di quella che è stata, soprattutto e ancora oggi sopravvive in tante espressioni importanti, la nostra industria pubblica. Vorrei anche dire quanto sia bello per me premiare una signora in carriera come la senatrice Levi Montalcini, che continua a dare il suo contributo come se fosse all'inizio della carriera, e noi le auguriamo ancora di continuare a lungo a darci il suo straordinario apporto. Sono anche molto contento di poter consegnare, uno per la verità l'ho già consegnato a Tokyo, è la mia seconda volta, al signor Machida, presidente del gruppo Schatz. Sono molto contento anche che abbiamo con noi il signor Kosnirovic come titolare di un'importante impresa e società che agisce nel campo della moda in Russia e che, come ha sottolineato l'ambasciatore Vattani, fa da ponte per i rapporti tra Italia e Russia. Così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, le interviste che abbiamo realizzato con il numero della Sharp Machida, con il numero uno dei magazzini Gum, le ascolteremo più avanti anche per sentire quali sono le prospettive di grandi manager, in questo caso giapponesi e russi. Il ministro Scajola ha detto comunque il peggio è alle nostre spalle e ha in qualche modo profuso ottimismo, ha detto il nostro paese potrebbe trovarsi in pole position quando la ripresa economica prenderà slancio. L'Italia può agganciare prima e meglio di altri le opportunità offerte dalla ripresa del quadro economico mondiale. Sono certo, e non sono parole di circostanza, che l'impresa italiana, con la passione e l'impegno che da sempre ne contraddistingue tutti i suoi protagonisti, imprenditori e lavoratori, saprà essere ancora una volta al centro di questa nuova stagione, cogliendone tutte le potenzialità e continuando ad assicurare un contributo determinante ai successi dei nostri prodotti e alla promozione della nostra Italia nel mondo. Vedremo come saranno i dati. Quello che è certo è che, insomma, le personalità premiate oggi al Premio Leonardo sono tra gli imprenditori che sono messi in maggior luce in questo anno. Sentiamo la presidente del Comitato Leonardo, oltre che presidente del gruppo Todini, Luisa Todini. Le abbiamo chiesto con quali criteri siano stati assegnati questi premi. I premi vengono conferiti in base a una votazione effettiva e molto trasparente da parte di tutti i soci, e compresa Confindustria, ICE, Presidenza del Consiglio, e quindi scaturiscono da un voto. Siamo molto lieti che di fatto ci sia stato un bel panorama di settori, perché si premia la siderurgia, l'impiantistica, le infrastrutture, la logistica, la moda e l'alimentare, di fatto un po' tutte le eccellenze italiane. La nostra scelta autonoma è ricaduta sul premio alla carriera alla senatrice Montalcini, che quest'oggi il Presidente Napolitano ha definito senatrice in carriera, dato che si porta benissimo i suoi anni, e poi è il premio alla protezione civile. Ogni anno conferiamo un premio speciale, ci è sembrato opportuno quest'anno darlo alla protezione civile. È venuto il dottor Bertolaso con una bella squadra pronta per partire per Haiti, perché anche la solidarietà e il buon fare, il fare squadra e fare gruppo da questo punto di vista rappresenta una grande eccellenza italiana. Qual è la parte del messaggio del presidente Napolitano che le è piaciuta di più? Beh, ha fatto questo excursus di filo conduttore del Made in Italy, ricordando gli anni 80 che nacque a Milano con la moda, e poi da lì si è arrivato al design, all'agroalimentare, ed oggi si arriva ad avere un presidente del Comitato Leonardo nel settore delle costruzioni, quindi è un fil rouge di tutta l'eccellenza. Così il presidente del premio Leonardo, Luisa Todini. E allora ascoltiamo le tre interviste che abbiamo realizzato con i tre premiati. Ripeto, il numero uno, il presidente del gruppo Techint, Gianfelice Rocca, e poi il numero uno della Sharp e il numero dei magazzini GUM. Un paio di risposte le devo dare al 349-238-6666. Allora io capisco la vera polemica, però insomma, che questo programma sia la gran cassa del governo lo può dire solo chi lo ascolta poco. Non è la gran cassa di nessuno, diamo voce a tutti. E tra l'altro, nel parlare poi di quanto è passato in commissione sulla riforma del mercato del lavoro, per quello che riguarda l'apprendistato, vi saranno anche i sindacati, come sempre. Poi insomma, non mi sembra che qui siano mai mancate critiche o così perplessità ad alcune dichiarazioni del governo. Un anno e mezzo fa, quando la crisi veniva negata, noi ne abbiamo sempre parlato e dicevate, alcuni dicevano che eravamo dei gufi, che è colpa nostra se poi i cittadini consumavano di meno perché noi stavamo amplificando la crisi. Allora mettetevi d'accordo ancora sul nucleare, allora, e le scorie. Allora, ne parleremo, non è tema di oggi, però una cosa faccio notare con massima, diciamo, laicità possibile. Se un paese come la Slovacchia, oltre che paesi, diciamo, ben più avanzati sul fronte nucleare, riesce a gestire le scorie, non è impossibile gestire le scorie nucleari. Dopodiché occorre capire qual è l'apporto, qual è l'investimento. Ricordo, e poi la chiudiamo con questo tema per oggi, che l'obiettivo è di arrivare nel 2030 a un 25% di energia prodotta con nucleare, il restante 75% dovrà essere prodotto, 20% da fonti alternative, almeno fonti rinnovabili, e poi la solita miscela di petrolio e gas e carbone. Ora io non sono così convinto che il petrolio e il gas siano meno dannosi del nucleare, ma su questo ascolteremo diversi esperti, chi è contro e chi invece è a favore. ...17:34 di nuovo in diretta con Sebastiano Berrisoni per parlare di borsa e poi della situazione economica vista da tre prospettive diverse di chi è ai vertici di tre grandi gruppi. Bene, vedo che il nucleare continua a piacere come tema. Faremo una puntata, due puntate, tre puntate sul nucleare, ci divertiremo, ci mancherebbe. Ascolteremo, è chiaro che anch'io le mie opinioni, si dice solo che in questo programma tutte le opinioni sono state sentite. Nel caso specifico del nucleare devo dire che insomma ascolto quello che viene detto e leggo quello che viene scritto, non ho una competenza tecnica, dico solo è inutile avere paraocchi sempre preconcetto, no al nucleare per definizione. Vediamo se i francesi sono così stupidi, gli inglesi anche, gli slovacchi pure, insomma, non lo so. Comunque dai, la borsa. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, qua insomma, il motivo ufficiale è i bilanci trimestrali delle banche americane, però Wells Fargo è andata bene, è andata anche abbastanza bene, mi sembra di poter dire, Bank of America, migliore delle attese, è andata male Morgan Stanley, meno del previsto, ma questo giustifica un calo del 2,5% a Milano, del 2% a Francoforte e a Parigi, dell'1,80 a Londra, dell'1,7 in America? Ma in qualche modo lo giustifica, ma forse non è l'unica causa. Dobbiamo ricordare infatti che già questa mattina le borse non andavano particolarmente bene, gli operatori sottolineano di avere alcuni timori dopo che ci sono state delle indiscrezioni sul fatto che in Cina le autorità avrebbero consigliato, diciamo così, le banche, avrebbero esortato le banche a non fornire più prestiti per evitare un surriscaldamento dell'economia, un blocco che dovrebbe durare fino a fine gennaio, visto che nei primi giorni di questo mese ci sarebbe stato un vero e proprio boom e le autorità cinesi sono preoccupate che ci sia un surriscaldamento dell'economia. E poi anche alcuni dati macroeconomici dagli Stati Uniti che preoccupano e oggi si sono fatti sentire, in particolare il meno 4% degli avvii di nuovi cantieri che ha pesato su tutto il comparto delle costruzioni. E questo giustifica perché poi andare particolarmente male siano stati i bancari e i titoli legati alle costruzioni. Male anche gli energetici, adesso arriviamo ai bancari. Enel meno 2,90%, oppure Eni cala di più del 2%, al 2,1%. Sì, male gli energetici anche perché il petrolio oggi è in forte arretramento. il WTI cede il 2% a $77.69, questo ovviamente si va a ripercuotere sugli energetici. Allora andiamo sui titoli, tra le banche tutte male, adesso ricordiamo anche l'andamento così facciamo contenti tutti gli ascoltatori, la peggiore è la Popolare di Milano meno 4,1, male anche Intesa meno 3,3, Unicredito meno 3,2, Banco Popolare meno 3%, Generali meno 2,90, ancora tra le banche i cali peggiori sono questi, c'è Monte dei Paschi che perde il 2% e Mediobanca il 2,1. Oltre al settore bancario e Mediolanum l'1,90, oltre al settore bancario particolarmente male Finmeccanica meno 4%, e poi si diceva, tu hai già fornito la spiegazione, dei titoli legati alle costruzioni, Buzzi Unice meno 3,90, Impregilo meno 3,30 e ancora Italcementi meno 2,60. Cito e poi passo alle domande, Prismian meno 2,8, come il titolo Fiat che perde il 2,8%. Allora, la Popolare di Milano, qui c'è anche il piano industriale presentato da un lato, e poi Finmeccanica. Sì, per quello, ieri la Banca Popolare di Milano ha presentato il piano industriale a mercati chiusi, oggi c'era quindi attesa sia per come avrebbero reagito i mercati, sia per eventuali spiegazioni che avrebbe fornito il management della società durante la conference call. Si tratta di un'accoglienza tiepida, perché pure un settore bancario che è andato male oggi, BPM è il titolo peggiore nell'S&P MIB, ha ceduto il 4,15%. Va detto, a parte le giustificazioni, che il titolo, proprio in attesa del piano, era andato bene nelle ultime settimane, aveva sovraperformato l'indice bancario europeo del 7%. Va anche detto che però nel piano non ci sono novità sostanziali, anche l'utile previsto al 2012 di 378 milioni e al di sotto delle stime che avevano fatto alcuni analisti. Fra le altre cose, il piano, la solidità patrimoniale dovrebbe mantenersi sostanzialmente in linea, leggermente migliorata al 7,2% di Core Tier 1, insomma un piano che non ha stupito particolarmente. Per quello che invece riguarda Finmeccanica. Ci sono timori di una riduzione delle spese militari negli Stati Uniti, ricordiamo che gli Stati Uniti rappresentano circa il 60% dei ricavi del gruppo, e proprio su questi timori analizzati dagli analisti di Goldman Sachs il titolo ha ceduto, perché Goldman Sachs oggi ha sostanzialmente confermato la sua raccomandazione sell, quindi vendere sul titolo, con un prezzo obiettivo a 10 euro. Un report che, unito alle attese, non ha fatto particolarmente bene al titolo. Il report no, però cosa ci possiamo fare? No, comunque al di là della battuta e al di là del report di Goldman Sachs, è vero che le attese sono, i timori nel caso di Finmeccanica sono di una riduzione delle spese militari, anche qui prima che si scatenino gli SMS è una notizia, un dato di fatto, non è una valutazione. Molti di voi potranno dire ben venga una riduzione delle spese militari. Allora, per quello che riguarda Fiat, anche qui c'è un calo consistente, quasi il 3%. Sì, per quello che riguarda Fiat, ieri diciamo che tutto il comparto auto oggi è stato fortemente penalizzato. Ieri inoltre la società ha diffuso il consensus degli analisti per quello che riguarda le stime sul 2009. Le attese sono per una perdita di 470 milioni di euro rispetto a un utile di 1,72 miliardi nel 2008. La ripresa comunque dovrebbe arrivare a partire dal 2010, quando, sempre secondo queste stime, che fanno un po' la media, diciamo l'utile dovrebbe essere di 535 milioni. In un comparto non brillante come quello automobilistico oggi, Fiat ha perso il 2,89% sostanzialmente in linea, ecco, con gli altri titoli dell'auto. Allora, migliore e peggiore è il miglior titolo è Crespi, più 20,1%, CDC Point più 5%, Eterna Energia più 5%, peggior titolo Mondo TV meno 6,6%, House Building meno 6,2%, Renault meno 5,80%. Grazie come sempre ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, oggi nella persona di Guido Maurino, e noi adesso sentiamo un insieme di interviste nazionali e internazionali, quindi a manager italiani e stranieri accomunati ad aver vinto il premio Leonardo, ma le interviste chiaramente sono sulla situazione economica e anche sulle scelte e le soluzioni adottate. E allora Allora, iniziamo con la prima intervista, ossia chi ha vinto il premio Leonardo in assoluto. Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, presente in 40 paesi, fa capo alla famiglia Rocca, opera nelle costruzioni, nelle grandi opere, fabbrica tubi, laminati in acciaio, nella sanità. Se cito le società, forse alcuni di voi capiscono: Tenaris, Technit Engineering, Techint Engineering, Tech Petrol, Tenova, Humanitas, la Dalmine. 53.000 dipendenti e un giro d'affari di 26 miliardi di dollari l'anno, è appunto presente anche in 40 paesi. Abbiamo chiesto innanzitutto a Gianfelice Rocca quale scenario stia vedendo sui mercati internazionali, quindi nei 40 paesi in cui è presente. Io penso che noi abbiamo superato la parte in discesa, ma la risalita si svolge in un modello di competitività relativa fra paesi completamente diverso, e arrampicarsi fuori dalla crisi è un tema di grandissima rilevanza e sarà diverso dal passato. Noi pensiamo che questo avverrà moltissimo in Asia, sia per demografia sia perché abbiamo visto scendere l'Occidente al 4% e crescere il resto del mondo a ritmi completamente diversi. Quindi dobbiamo completamente cambiare la nostra matrice competitiva e ad adattarci a essere più competitivi su quei mercati. Solo da questo deriverà una capacità di sviluppo. Si dice comunque che il 2010, qui vengo ai temi molto più europei e italiani, sarà l'anno della difficoltà occupazionale. Segnali sono arrivati anche non solo nel gruppo suo, ma nell'area, oserei dire, dove voi operate. Ritiene che comunque attraverso la cassa integrazione e altre forme di ammortizzatori sociali si riuscirà a traghettare anche la dimensione occupazionale verso fine d'anno, quando la ripresa dovrebbe essere un po' più consistente? Io ritengo che gli ammortizzatori sociali hanno funzionato e stanno funzionando, frante anche all'interno del nostro gruppo noi abbiamo chiuso l'accordo col sindacato in modo positivo, anche aiutando la ristrutturazione. Quindi dal punto di vista generale penso che abbiamo usato molti anestetici, diciamo, e che abbiamo adesso da affrontare dei temi molto strutturali. E il recupero dell'occupazione deriva solo da un recupero dell'attività imprenditoriale, non bastano, diciamo, gli ammortizzatori, e questo è il grande tema che nasce da un rapporto innovazione, ricerca e presenza nei mercati asiatici. Solo da questo potrà nascere nuovi posti di lavoro, perché anche nel campo dei servizi noi abbiamo bisogno di accrescere la produttività per accrescere la competitività del paese, e questo non comporta una crescita dei posti di lavoro, e quindi dobbiamo fare un piano del lavoro a medio termine che abbiamo lanciato anche come Confindustria. Sempre nel suo ruolo anche di Confindustria e di vicepresidente di Confindustria e di imprenditore, abbiamo assistito in questi giorni a nuove notizie di grandi marchi, Lotto, penso Dainese, che devono ricorrere alla cassa integrazione. In alcuni casi c'è stato però anche l'annuncio che oltre a questa cassa integrazione vi sarà una delocalizzazione o comunque un trasferimento di alcune attività produttive all'estero e il mantenimento della parte progettuale in Italia. Vorrei sapere se vale per il vostro gruppo un ragionamento, una strategia del genere, e se l'alternativa a una, chiamiamola così, delocalizzazione spinta del manifatturiero può essere rappresentata solo da un maggiore vantaggio competitivo anche di carattere fiscale. No, io credo che il tema di fondo, l'aspetto fiscale è importante, ma rappresenta sempre qualcosa di in un periodo intermedio. Nel medio periodo è chiaro che un paese come l'Italia compete soprattutto avendo più contenuto intellettuale nei suoi prodotti. Le attività ripetitive moltiplicate su se stesse sono chiaramente in competizione con paesi che hanno dei vantaggi competitivi enormi. Ciò non toglie che la delocalizzazione di certe attività non rafforzi l'occupazione invece in Italia. Nel nostro caso noi abbiamo anche in settori dove abbiamo forti presenze all'estero ha aumentato la presenza italiana per tutte le attività, chiamiamole, di sviluppo intellettuale dei prodotti, di marketing. Quindi la crescita altrove non vuol dire diminuzione in Italia, assolutamente, anzi è necessaria la crescita dimensionale nel mondo per difendere l'occupazione italiana. E allora l'handicap più grosso che voi ci vedete, se la parte fiscale, come le ricordava, può dare un po' di respiro nel breve, ma non è la scelta strategica nel medio e lungo termine, la difficoltà più grossa che anche voi come imprenditori affrontate, qual è in questo momento come, diciamo, imprenditore e come competitività del sistema Italia? Direi che il tema più importante è la semplificazione, cioè l'imprenditore italiano si trova di fronte a una quantità di pratiche, di complicazioni enormi. Da lì bisogna partire, perché quando partiamo da un'analisi fiscale noi dobbiamo tenere presente, anche vedendo la situazione della Grecia, che noi ci muoviamo in un cammino strettissimo, e quindi la possibilità di favorire molto le imprese per via fiscale non è una strada facile. Certe cose si possono fare. Noi riteniamo che le risorse vadano concentrate soprattutto sulle piattaforme di convergenza in campo ricerca fra imprese imprese, università e centri di ricerca. Quello è il campo in cui con poche risorse si può fare molta differenza. In altri settori bisognerebbe usare molte risorse e l'Italia ne ha una disponibilità scarsa. Noi dobbiamo essere molto diciamo astuti, più che agire di forza, agire di astuzia dal punto di vista del pubblico per favorire le imprese. Beh, interessante a mio avviso anche questa riflessione sulle scelte di medio termine fatta da Gianfelice Rocca, appunto presidente del gruppo Techint, più che la riduzione fiscale che tanto insomma con questi conti pubblici non si riesce a attuare, e di oggi la notizia di quanto è aumentata la pressione fiscale, non quella nazionale centrale ma quella delle addizionali IRPEF e altre addizionali, ma più che la riduzione fiscale, la semplificazione fiscale, quella sì sarebbe possibile anche senza toccare i conti pubblici, basterebbe la volontà politica, appunto, a parità di gettito fiscale. ...17:50 di nuovo in diretta. Allora, torniamo a parlare di energia, così riapriamo il tema. Non energia nucleare, come abbiamo fatto ieri a quest'ora, illustrando le prospettive di investimento per l'avviamento di 4, forse 5 impianti nucleari, 30 miliardi, 20 miliardi di indotto, ma di un accordo di cui già ci occupammo lo scorso 4 gennaio. Oggi se ne è riparlato, adesso capirete perché. Già lo scorso 4 gennaio Enel Green Power, Sharp e STMicroelectronics hanno firmato un accordo per realizzare a Catania la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici in Italia, ma non solo, perché come abbiamo capito oggi intervistando il numero uno di Sharp, e mi riferisco a Katsushiko Makida, lo stabilimento di Catania servirà dal 2011 in poi per produrre pannelli fotovoltaici anche per il resto d'Europa. La Sharp è uno dei principali produttori, ma in questo momento li produce in Giappone. Investimento di 320 milioni di euro e un impianto che avrà una capacità produttiva iniziale di 160 megawatt l'anno. Sarà finanziato mediante una combinazione di capitale proprio, incentivi statali e project financing. Ogni partner avrà un terzo del capitale, quindi metterà 70 milioni di euro ciascuno, e ognuno avrà un terzo delle azioni della nuova joint venture. Le tre società, Enel Green Power porterà lo sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili, Sharp la tecnologia, che ha una tecnologia praticamente che ha solo Sharp, un film sottile a tripla giunzione che verrà prodotto a Catania dalla primavera del 2010 e che tra l'altro verrà prima prodotto nella fabbrica di Sakai in Giappone, poi anche a Catania, e STMicroelectronics metterà gli stabilimenti. La capacità produttiva della fabbrica di Catania è destinata ad arrivare a circa 480 megawatt l'anno, e poi nel 2011 produrranno a Catania anche i pannelli con la tecnologia di cui Sharp è leader e ha il brevetto esclusivo. Ne abbiamo parlato appunto con Katsushiko Makida, che oggi è stato premiato come manager internazionale al premio Leonardo International, e gli abbiamo chiesto in primo luogo praticamente perché avete scelto l'Italia. È una domanda che delle volte insomma fa un po' specie, siamo così abituati a non essere scelti dagli investimenti stranieri, la prima domanda che ci sembra naturale, ma perché proprio in Italia? Ma con il progetto è stato iniziato. Prima abbiamo rapporti della nostra società italiana che si chiama Sharp Electronics Italia S.p.A. Tramite loro avevamo già rapporti con Enel per quanto riguarda la vendita dei pannelli solari. Piano piano tramite loro siamo arrivati a un accordo con Enel per partecipare a due progetti. Uno è di fabbricazione e costruzione di pannelli fotovoltaici. Un altro accordo è per progetto di produzione di energia elettrica tramite questi pannelli fotovoltaici. Quindi abbiamo scelto l'Italia perché l'Italia è paese del sole, prima di tutto. Quindi è una grossa potenzialità per sviluppare l'industria del sole, e poi geograficamente si trova al centro dell'area mediterranea, quindi è molto strategico come posto per entrare e dunque per allargare piano piano anche nel mercato europeo. Una domanda sull'andamento generale invece dell'attività di Sharp. Il Giappone ha sofferto molto la crisi come altri paesi occidentali. C'è qualche segnale di ripresa che si vede soprattutto in Asia? Abbiamo provvisto per esempio il fallimento di Japan Airlines come grande compagnia aerea. I segnali che arrivano in Giappone, chiaramente, poi per l'attività mondiale di Sharp, sono sufficientemente forti da far parlare di una ripresa in atto oppure ancora troppo presto? In Giappone in genere l'anno di esercizio inizia a aprile e finisce a mese di marzo, quindi non corrisponde al nostro orario. Però detto questo, comunque dunque, non abbiamo ancora finito questo esercizio del 2009-2010, però stiamo arrivando quasi alla parità del ricavi e del fatturato di esercizio precedente. Quindi diciamo che ripresa c'è. Una ragione di questa ripresa del Giappone è che il nostro paese è molto vicino alla Cina popolare e anche altri paesi asiatici che hanno forti attività industriali, quindi abbiamo tante opportunità di business con loro. Questo era il motivo principale per questo segno di ripresa. Per quanto riguarda Sharp, abbiamo i prodotti che sono attualmente molto richiesti e soprattutto i prodotti che riguardano l'ambiente, come questa volta i pannelli fotovoltaici. Inoltre abbiamo anche LED per apparecchi di illuminazione. In più abbiamo anche prodotti come televisori a LCD che sono molto richiesti. Un aiuto a questa ripresa di cui lei parlava e ai conti anche di Sharp a livello mondiale può arrivare dalla cosiddetta green economy, quindi degli investimenti in fonti rinnovabili, fonti alternative o comunque integrate. E per quello che riguarda gli accordi europei, se avete già un business plan per accordi per esempio in Centro Europa, oppure resterà l'Italia per ora la vostra piattaforma di partenza? Green economy è importante nella ripresa, ma non solo, ma questo è un fatto globale. Dunque Europa, Giappone, anche negli Stati Uniti, altri paesi asiatici, sudasiatici. Quindi sottolineo che è importante questo green economy per la ripresa. Allora, per quanto riguarda altri progetti in Europa, noi già dall'anno scorso vendiamo fotovoltaici a altri paesi, ma prodotti fotovoltaici che sono fabbricati in Giappone, non ancora in Italia. Paesi di vendita sono tutta Europa, anche Germania, Spagna. La produzione di pannelli fotovoltaici in Italia, Catania, inizia in 2011. Da lì cominciamo anche a vendere anche quello che sono stati prodotti qui. Così appunto il numero uno mondiale del gruppo Sharp, che come avete sentito chiaramente è leader anche in altre produzioni, molto interessato all'Europa, molo interessato agli stabilimenti dell'ST Microelectronics di Catania. Va detto, visto che alcuni ci chiedono, insomma, che quello fu una grande e lungimirante scelta di Pasquale Pistorio, trasferire proprio a Catania la parte produttiva più interessante dell'ST Microelectronics, che a quel tempo era partecipata in maniera anche molto più attiva dal gruppo Finmeccanica, e da lì creare un centro di eccellenza. Comunque adesso c'è il GR, poi torniamo in diretta e parliamo di questo emendamento che è passato in commissione, ossia la cosa che fa più discutere. Vedo anche qui messaggi che dicono, insomma, i ragazzi hanno diritto di studiare fino a 16 anni, si creeranno dei baby schiavi. Anche di questo parleremo con chi questo emendamento l'ha fortemente voluto, e quindi il deputato del PDL Giuliano Cazzola. In pratica, poi ci sarà l'esame in Camera e Senato, ma si potrà a 15 anni utilizzare l'ultimo anno di scuola come apprendistato e quindi lavorare invece che andare a scuola. 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Avete sentito anche dal nostro GR le stime diffuse da poco fa dal Fondo Monetario Internazionale. Migliorano tutte le stime sull'economia mondiale. Nel 2010 la crescita dovrebbe essere del 3,9%, del 2,7% in America. La Cina, spettacolare, più 10%. E forse anche un po' frenato nel 2010 la crescita dell'economia. L'Italia più 1%, l'1,3% nel 2011, è comunque un dato un po' più alto rispetto allo 0,8%. Ripetiamo, prima che arrivino anche commenti, che è chiaro che se tu hai perso il 5% in un anno e fai più 1 all'anno, ci metti 4 anni, se ti va bene anche 5-6, a tornare ai livelli del 2008. Questo per dare da un lato l'idea che la ripresa c'è, dall'altro che l'intensità però è bassa e quindi sbaglia, sapendo forse anche di sbagliare, chi dice che a questo punto si esce velocemente dal tunnel. Da qua al 2013 non c'è alcuna previsione che si possa tornare ai livelli produttivi del 2008, fermo restando che magari l'economia potrebbe crescere un po' di più. Comunque, tema che sta molto a cuore, e vedo il tema dell'emendamento passato oggi in commissione lavoro della Camera, e che lunedì arriverà alla Camera, poi tornerà al Senato per via libera definitivo. Che cosa prevede? Soprattutto prevede che si possa andare a lavorare come apprendisti già a 15 anni, e questo varrà come se si fosse stati in classe. Poi ci sono anche altre novità. E allora il DDL lavoro 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, dicevo, anche altre novità in realtà, perché tornano a essere gratuiti i processi del lavoro. Il Senato aveva soppresso la relativa norma. I dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, non solo i medici, potranno andare in pensione a 70 anni con 40 anni di contributi, quindi vale anche per i biologi, i farmacisti. E è previsto anche il rafforzamento della Borsa Nazionale del Lavoro, con l'inserimento online anche dei curricula degli studenti da parte dell'Ateneo per i 12 mesi successivi alla laurea. Novità anche sul fronte congedi, conciliazione e licenziamenti: soppressi i limiti per il riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro, ripristinata la legge Biagi nella parte in cui autorizza i consulenti del lavoro ad avere un ruolo attivo nelle procedure di conciliazione. In tema di licenziamento viene estesa a tutti i rapporti di lavoro la possibilità di procedere all'impugnazione di un licenziamento entro 60 giorni. Poi alcuni dettagli: fissati i meccanismi di priorità per il pensionamento dei lavoratori impiegati in attività usuranti, e i superstiti dei vigili del fuoco volontari e di quelli in servizio permanente avranno la pensione equiparata, quindi stesso trattamento economico in caso di infortunio o di malattia. Ma insomma, è inutile girarci attorno. La norma che sta più facendo discutere è quella che ha fortemente voluto il deputato del Popolo della Libertà, ex sindacalista, ex esperto di materia di mercato del lavoro e di norme sul lavoro, Giuliano Cazzola, relatore del disegno di legge, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, quella che dice in sostanza: l'ultimo anno di scuola si può fare al lavoro e l'apprendistato vale come un anno di scuola. Dicevo, numerose reazioni. Poco fa l'ex ministro Giuseppe Fioroni, responsabile del PD per l'area welfare, ha detto: praticamente la maggioranza e il ministro Sacconi hanno deciso di fare carta straccia dell'obbligo scolastico. Onorevole Gino Cazzola, buonasera. Buonasera a lei. Allora, questo ha detto Fioroni, poi ci sono anche un po' di perplessità, per essere buoni, dei sindacati. Di nuovo nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per l'ultima parte del programma. Allora, onorevole Cazzola, ascoltiamo intanto la CIS, così poi avrà modo anche di rispondere alle varie obiezioni. Giorgio Santini, al microfono della nostra Valeria De Rosa, poco fa sulla norma dell'apprendistato che, ripeto, prevede che a 15 anni uno possa trascorrere l'ultimo anno dell'obbligo scolastico al lavoro e non a scuola. Noi agiamo in questo momento in questo contesto legislativo che prevede che l'obbligo scolastico, o meglio l'obbligo di istruzione, deve arrivare fino a 16 anni con attività specificatamente di istruzione. Quindi è molto discutibile il fatto che queste attività di istruzione possano essere invece svolte attraverso quello che comunque è un rapporto di lavoro, che è l'apprendistato. L'altra questione, la legge Biagi prevedeva che l'apprendistato non poteva iniziare prima di 15 anni, perché all'epoca c'era l'obbligo scolastico 15 anni. Allora qui può succedere che un ragazzo finisce la terza media, deve iniziare poi un percorso almeno biennale per fare l'obbligo di istruzione, ma in questo caso deve iniziare un nuovo percorso per un anno, quindi deve andare a scuola dopo la terza media per un anno, non si capisce bene dove, e poi a 15 anni potrebbe, diciamo, andare a lavorare e a fare l'apprendistato. Il rischio concreto è che ci sia non una minore dispersione scolastica come tutti vorremmo, ma addirittura un quadro ancora più confuso che genera maggiore dispersione scolastica. Quindi noi diciamo che se vogliamo veramente valorizzare l'apprendistato, potremmo inserire questa possibilità in quei percorsi cosiddetti di formazione e istruzione professionale che sono già in vigore e sono normalmente di durata triennale, che potrebbero invece che 3 anni durare 2 anni, e il terzo anno, quindi soddisfacendo l'obbligo di istruzione, poter avviare anche, diciamo, in anticipo l'apprendistato. Ma farlo a prescindere dall'obbligo di istruzione, francamente, ci sembra una cosa frettolosa e portatrice di confusione e quindi poi di paralisi operativa. Allora, onorevole Cazzola, visto che lei è vicepresidente della Commissione Lavoro ed è appunto colui che è relatore del disegno di legge, le giro anche le perplessità di alcuni ascoltatori al 349-238-6666, ha sentito quelle della CISL. Insomma, si parla tanto di formazione, formare e poi a seconda delle esigenze si manda al lavoro prima, cioè non si fa nemmeno completare l'obbligo scolastico a 16 anni. Non si poteva trovare un modo un po' diverso, perché sennò due studenti, uno che non ha bisogno, l'altro sì, uno finisce a 15, l'altro a 16. Siamo sicuri che questo poi permetta nel medio termine una maggior permanenza nel mercato del lavoro? Guardi, per il governo, ovviamente questo emendamento è stato concordato con il governo, con il Ministero del Lavoro. Il contratto d'apprendistato ha un alto contenuto formativo, quindi non dico che ci sia un'equipollenza con la scuola dell'obbligo, però noi ci troviamo in una situazione nella quale abbiamo cercato di dare una risposta a dei problemi pratici. Questo obbligo formativo a 16 anni sostanzialmente non è legato a nessuna modifica dell'ordinamento scolastico, nel senso che oltre alla scuola media il ragazzo può fare altri 2 anni, ma che non gli servono per acquisire un titolo di studio, per acquisire diciamo un qualcosa che gli serva nel suo curriculum in qualche modo, no? Sono 2 anni così affidati a se stessi. Ovviamente il ragazzo può benissimo continuare a studiare fino a 16 anni, può continuare a studiare anche dopo, non è che ci sia un obbligo di diventare apprendista, anche perché entrare nel mercato del lavoro ci si entra se c'è qualcuno che ci fa entrare. Noi abbiamo semplicemente detto che quando si raggiunge l'età dell'apprendistato, del poter stipulare un contratto d'apprendistato a 15 anni, il secondo anno dopo la scuola media, in buona sostanza, gli può valere come completamento dell'obbligo di istruzione. Secondo me la parola obbligo di istruzione non è un obbligo scolastico, è un obbligo di istruzione, gli può valere anche facendo, entrando prima nel mercato del lavoro con un contratto d'apprendistato. Non mi sembra che questo risolva particolari problemi, ma non mi sembra neppure che possa essere soggetto allo scandalo che sta venendo fuori in queste ore. Ecco, sì, però di fatto, adesso possiamo girarla in tanti modi, però di fatto è come dire o reintrodurre la possibilità di andare a lavoro a 15 anni, perché insomma, di riffa o di raffa, onorevole Cazzola, se poi si dice guarda che tanto l'ultimo anno, se lo fai come apprendistato, ti vale come anno scolastico, tu di fatto vai a lavoro a 15 anni, il che non è, una volta si andava a 14 anni, da quello che ho capito la tendenza europea era a formare un po' di più, di solito il limite scolastico è 16 anni nella maggior parte dei paesi europei, però insomma si può anche ragionare dei 15 anni, basta dirlo o no? No, no, ma sicuramente è chiaro che, se, che l'obbligo scolastico rimane all'obbligo diciamo formativo rimane fino a 16 anni, ma questo obbligo per un anno può essere completato con un contratto d'apprendistato. Certo, se, però non dobbiamo vedere il lavoro come una punizione e come qualcosa che sia di per sé in contrasto con l'istruzione e con la formazione. Io credo che sia molto meglio se un ragazzo ritiene di dover fare quella scelta, che possa andare in al lavoro con un contratto altamente formativo, come il governo vuole, ecco, vuole fare. Sì, ecco, veniamo su questo. Stare a parcheggiare diciamo in gironi scolastici, a questo punto non dico di ultima categoria, perché la maggior parte di questi finisce in istituti di formazione professionale che non sono proprio il punto di vista formativo, lavorativo, non sono proprio il meglio. No, però non è che se l'istruzione in Italia funziona male negli istituti tecnici, allora li mandiamo a lavoro a 12 anni, cioè non so come dire, lì risolveremo il problema dell'istruzione. Se alcuni istituti tecnici lavorano male, sarà un problema del ministro Gelmini occuparsene, se formano male se ne deve occupare la Gelmini, però non è che si può dire siccome lì tanto non ti formano ti mandiamo al lavoro prima, perché sulla base di questa logica, allora se la scuola media non forma, non funziona, li mandiamo a lavoro a 11 anni. È chiaramente un'estremizzazione. È una scelta che fa il ragazzo con la sua famiglia. Faranno i genitori anche, mi auguro. Sì, certo. Però una cosa vorrei capire, perché molti ci scrivono, ma in sostanza cosa, come fate a evitare il rischio che questo ragazzo o vada lì a non fare nulla, allora meglio se ne stava in classe, magari imparava l'italiano un po' meglio, imparava a scrivere un po' meglio, imparava l'inglese, le ricordo ancora le 3 I dell'altro governo Berlusconi. Ma e come fate a non essere sicuri che non si tratti, mi passi il tema, di mano d'opera a costo zero o quasi zero, cioè che invece che assumere un ragazzo di 17 anni io posso avere la convenienza di prendere un apprendista a 15, tanto se mi deve fare una mansione molto bassa è chiaro che rischio molto poco tra 17 e 15, non, questo rischio l'avete preso in considerazione? Guardi, il contratto d'apprendistato è un contratto vecchio come il cucco, nel senso che non solo appartiene alla storia del mondo del lavoro, ma appartiene diciamo a una regolazione che è data dagli anni 50. Ci sono delle regole precise per quanto riguarda anche le retribuzioni, le qualifiche, quindi fra essere assunto come apprendista a 16 anni o essere assunto come apprendista a 15 anni le differenze sono assolutamente minime. Ci sono delle tabelle salariali che evolvono rispetto all'età vanno periodicamente anche rispetto all'età dell'apprendista, quindi le differenze sono abbastanza minime. Adesso le faccio una domanda che quella conclusiva che è a cavallo tra diciamo economia e politica, ma non temete che in questo modo il messaggio che esce sia se volete si può andare a lavorare prima e cioè madama la marchesa sulla formazione, cioè non si può parlare di formazione per mesi, fare la campagna sulla formazione, l'importanza che i nostri studenti vengano formati, le scuole che non formano, i corsi, e poi dire a un certo momento vabbè, se volete a 15 anni tutti quanti al lavoro, perché tanto poi di fatto io ho capito quello che dice lei Cazzola, ma tra un 18enne o 17enne preso come primo impiego e un 15enne preso come apprendistato, se devi fare poca roba è chiaro che si rischia di prendere il 15enne, cioè non temete che poi l'effetto politico sia un boomerang? Guardi, innanzitutto noi siamo come formazione politica persone che hanno siamo più dubbi che certezze, no? Quindi questa legge poi uscirà dalla Camera alla fine della prossima settimana, noi non siamo chiusi a valutare anche le argomentazioni dell'opposizione, salvo che non siano sostanzialmente questioni che fanno in modo che la gente sia costretta a stare dentro i principi anziché avere dei principi che servono alla gente. Io faccio solo notare che per il governo, ai sensi anche della legge Biagi, il contratto d'apprendistato ha un forte valore professionalizzante, tanto che ci sono tre livelli di apprendistato, uno di questi, l'ultimo, è addirittura contiguo alla laurea e al dottorato di ricerca. Quindi non vediamo il contratto d'apprendistato come l'ultimo girone del mondo del lavoro, è un modo per entrare nel mondo del lavoro cercando anche sostanzialmente di recuperare un percorso formativo e scolastico, tanto che il terzo livello si può addirittura laurearsi o addirittura stipulare fare un contratto di dottorato di ricerca. Sì, non so, resto molto perplesso, lo dico molto sinceramente, Cazzola, perché penso che forse si potesse anche trovare un metodo un po' più morbido, non so, magari un inizio di apprendistato che obbligasse il ragazzo a seguire alcune ore di lezione durante la settimana e poi, se ha voglia, a fare l'apprendistato in fabbrica, ma insomma portare da 16 a 15 così sembra dare via libera, insomma, di fatto, a mio avviso, alla riduzione di un anno dell'obbligo scolastico. Io su questo, però... Grazie per la disponibilità innanzitutto all'onorevole Gino Cazzola, vedremo che cosa uscirà poi dal Senato, perché io già mi vedo i titoli dei giornali domani. Grazie veramente, siamo in chiusura del programma, un augurio di buona serata da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.